Buonasera a tutti, inizia Azzardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e andremo avanti fino alle ore 21:30, ma ora andiamo con la sigla. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Azzardis Magnetics, che diciamo, anzi è iniziata adesso. Siamo in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e andremo avanti fino alle ore 21:30. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli e ora andiamo all'ascolto di questa band di Modena. Sono esattamente 20 anni che questa band si è formata. Loro sono i No White Rag e da un loro album datato 2011, Silence is Violence, ci ascoltiamo un paio di brani. No White Rag da Modena. Get off this! La speranza di cui parlate è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. Mai avere la speranza è una trappola inventata dai padroni. Never. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, iniziamo il Zardins Magnetics di oggi, appunto, dando spazio alle forme di resistenza e di ribellione all'occupazione militare degli alpini che stiamo subendo in questi giorni. Oggi proprio si vede in maniera più plateale, diciamo, sì, in cosa consiste appunto questa occupazione militare che andrà avanti fino a domenica. E appunto in questa città, l'avevamo già detto lo scorso giovedì, comunque, insomma, ormai tappezzata di tricolori da un bel po' di settimane, una città dove i bottegai vari, insomma, di tutti i tipi si stanno fregando le mani, perché appunto aspettano lauti guadagni da questi 3 giorni di delirio. E sono comparse anche le tendopoli, belle zone rosse circondate da reti elettrosaldate, quindi inaccessibili alla popolazione, agli abitanti della città stessa. E è sorta anche questa cittadella, come la chiamano loro, al Parco Moretti, dove appunto fanno bella mostra di sé varie attrezzature belliche. C'è anche un elicottero, è arrivato anche un elicottero militare. Ci sono varie, chiaramente non è accessibile, ma da fuori si vede, insomma, che ci sono così vari stand dove devono propagandare il militarismo, e addirittura pensano di arruolare, insomma, di proporre l'arruolamento ai giovani delle scuole. Appunto, ci sono questi accessi firmati Leonardo, insomma. E così, in questa situazione, insomma, di disagio, diciamo, per chi ancora ha una dignità, una coscienza e così non vuole essere ingabbiato, ci sono però anche delle forme di resistenza e opposizione. E veniamo ad apprendere, in questi giorni siamo venuti ad apprendere dai mezzi di comunicazione di regime, come si suol dire, con una frase che mi fa ridere, comunque è vero, attraverso i mezzi di comunicazione di regime siamo venuti a conoscenza di un volantino che è stato affisso nella città di Udine, appunto un volantino di non tanto di protesta quanto di così controstoria, diciamo, di questo corpo militare infame, come tutti i corpi militari peraltro, anche se la gente comune, chiamiamola così, certe volte non capisce che anche gli alpini fanno parte dell'esercito, sono dei militari, non sono dei buon temponi che vanno a bere il vino e danno una mano quando succede qualche calamità naturale. E allora, appunto, visto che grazie a mi pare che un senatore, non so che cosa, di Forza Italia, questo volantino è stato pubblicato, e ne diamo lettura, in modo che anche chi non ha potuto vederlo sui muri possa venirne a conoscenza. Alpini, uomini del fare male. Quello delle truppe alpine è un corpo militare speciale, e per entrarvi a far parte bisogna superare un programma formativo particolare. Ad un livello più superficiale, l'addestramento si basa su concetti di leadership, di spirito di corpo, di ideologia patriottica, di disciplina, eccetera, eccetera. Alla loro fondazione, nel 1872, gli alpini furono concepiti come corpo di difesa delle frontiere, che erano e sono principalmente quelle che separano lo stivale dal continente, ovvero i territori della catena alpina. Le reclute provenivano dalle aree montane di confine, e non a caso ciò si inseriva anche in un progetto di italianizzazione forzata delle popolazioni di lingua e cultura non italiana del Nuovo Regno. Sotto il regime fascista, gli alpini furono impiegati nell'aggressione dell'Etiopia 1935, mentre qualche anno dopo, nel 1940-41, furono protagonisti di una prima disfatta nella fallita invasione della Grecia. Poi, nel 1943, con il contingente mandato in Unione Sovietica in supporto all'invasione nazista, subendo una pesantissima e definitiva sconfitta. Nel frattempo, alcuni reparti alpini del Regio Esercito furono inviati anche in operazioni antiguerriglia nella repressione del movimento di liberazione jugoslavo. In particolare, a titolo di esempio, parteciparono all'accerchiamento e allo sterminio di partigiani alla Malga Golobar sopra Bovec, nell'alta valle dell'Isonzo, il 26 aprile 1943. Qui, in seguito a una delazione, i militari italiani identificarono le postazioni di alcune formazioni combattenti jugoslave e tesero loro un'imboscata dove morirono 40 partigiani, molti dei quali erano impreparati e reagirono alle mitragliatrici cantando inni di lotta e gridando slogan. Gli italiani legarono sui muli le loro salme e le trascinarono lungo le scarpate nella valle, legate come tronchi, poi ammassate nei cassoni di alcuni camion e portate a Bovec tra canti e suoni di fisarmonica, per essere esposte in piazza prima che ne fosse concessa la sepoltura. Negli anni 50 la Repubblica Italiana ha persino conferito delle onorificenze per questi delitti. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 fu riorganizzato un reggimento alpini tagliamento presso la caserma di Prampero a Udine, nell'ambito delle formazioni collaborazioniste, con compiti di gendarmeria antiguerriglia e antipartigiani. I militi avevano sul bavero l'aquila del patriarcato, lo stemma del Friuli. In particolare anche questi alpini furono impiegati in operazioni antiguerriglia contro la resistenza, sia in ambiente montano. Fu attivato un presidio permanente a Cividale, presso la caserma Francescatto e poi a San Pietro al Natisone nella Benecia, sia in pianura e in ambiente urbano, Udine e Palmanova presso la caserma Piave. Nell'imminenza della liberazione, il reggimento alpini tagliamento passò alla brigata Osoppo e marciò con i fazzoletti verdi su Cividale. In seguito, i suoi elementi furono integrati nelle squadre paramilitari clandestine, o terza divisione, eccetera, per andare a far parte infine della struttura spionistica e stragista Gladio nell'ambito della rete NATO Stay Behind. Vengono tuttora onorati in occasione di commemorazioni ufficiali, ad esempio in una recente orazione di un parlamentare per aver difeso l'italianità di queste zone. Negli anni 60 reparti alpini dell'esercito della Repubblica nata dalla Resistenza furono impiegati in rastrellamenti e rappresaglie verso i civili in occasione dell'insorgenza separatistica degli Schützen in Sud Tirolo. Questi ultimi conducevano degli attacchi contro le infrastrutture e i monumenti italiani per porre a livello internazionale la questione di un loro ricongiungimento al Tirolo austriaco, poiché di fatto vivevano una condizione di dominazione straniera. Per tutta risposta, la provincia di Bolzano fu occupata militarmente da 24.000 soldati. In un episodio di questo conflitto, il 12 settembre 1964, nel villaggio di Montassillone Tesselberg in Val Pusteria, fu un colonnello degli alpini a dare l'ordine, all'ultimo momento non eseguito, di incendiare le case e fucilare i 15 abitanti presenti. Ai nostri giorni, gli alpini della Brigata Julia sono schierati in Ungheria per l'operazione NATO Enhanced Vigilance Activity. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, la NATO ha infatti dispiegato migliaia di soldati supplementari dal Mar Baltico al Mar Nero, con 4 nuovi gruppi tattici localizzati in Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Romania. Oltre ad essere presenti in situazioni di guerra, missioni internazionali, su diversi scenari da decenni, componenti alpine sono utilizzate nell'operazione Strade Sicure, che coinvolge migliaia di soldati con compiti di vigilanza dei CPR, i lager per immigrati, e dei siti urbani per un ambiente più sicuro, come lo chiamano loro. Chi si arruola come alpino entra a far parte di un modello di moderno soldato perfetto. Per definizione viene addestrato secondo criteri di non riflessività e di non empatia con il nemico, oltre che alla resistenza alle condizioni psicofisiche più estreme, necessari, secondo i vertici militari e dello Stato, a operare nel moderno scontro asimmetrico, cioè di fronte a un nemico ostile. Ma concretamente il training cui va incontro è un processo per trasformare un civile in un militare, cioè per separare un elemento della società dal suo contesto relazionale e trasformarlo in un dispositivo che procede automaticamente secondo gli ordini. L'esito finale di questo processo è formare una persona problematica e con tendenze sadiche, un esito che fa schifo, un esito da sabotare. E questo era appunto un volantino prodotto da antimilitaristi e antimilitaristi ignoti, che è comparso nei muri, appunto, sui muri della città di Udine, e che è stato ripreso anche da giornali e da addirittura anche da Telefriuli. E vabbè, è importante perché appunto non tutti, per fortuna non tutti, sono allineati e accettano passivamente questo assedio che stiamo vivendo. Ciao, un saluto anche da parte mia a tutti voi che siete in ascolto. e per così fare solo una un commento a tutto questo che abbiamo sentito poco fa, questo lungo, insomma, sì, testo. Abbiamo una notizia semplicemente di qualche, cioè del 7 maggio, sull'Indipendente. Il governo annuncia le missioni militari per il 2023, 4 nuove pedine sul globo terracqueo. Quindi ci saranno 9 missioni del personale militare italiano in Libia, in Niger, in Burkina Faso e in Ucraina. Allora, quest'ultima è una missione di assistenza militare per fornire addestramento alle forze armate, e comunque si svolge nel territorio di stati membri dell'Unione Europea. Libia e Niger sono missioni coordinate a livello comunitario, anche quelle. Invece quella in Burkina Faso è un intervento bilaterale di supporto, in quanto scorso febbraio i militari francesi che erano là ufficialmente per debellare il fenomeno virgolette terroristico, hanno definitivamente abbandonato il paese perché c'è stata una mobilitazione popolare contro gli ex colonizzatori. A quanto pare, dice l'Indipendente, il governo italiano ha raggiunto un accordo con la giunta militare burkinabè per supportare l'esercito regolare nella lotta ai gruppi armati. Poi c'è un rafforzamento nella presenza del Mediterraneo dicevo nel Mediterraneo, perché, scusate, stavo scorrendo le pagine, e inoltre una notizia che è comparsa anche su tutti i media ufficiali della partenza di una delle portaerei per il mare della Cina. Questa, insomma, se volete approfondire meglio, insomma, adesso qua diventa se no un po' lunga, c'è questa notizia che vi ho dato sull'Indipendente, molto approfondita, sia sulla presenza in Libia sia sulla presenza, diciamo, anche nel resto dell'Africa, ecco. Allora, inoltre, cambiando un po', voltando pagina, abbiamo un piccolo aggiornamento su Alfredo Cospito. L'avvocato Maria Teresa Pintus ha così fatto sapere che il compagno sta bene, alle caviglie gonfie per ristagno idrico, è in attesa, insomma, della visita del medico di parte, ma soprattutto fa sapere che c'è una situazione detentiva pessima, e all'ingresso del reparto ci sono della carcere di Opera, dove il reparto, insomma, sanitario del carcere di Opera a Milano, ci sono dei topi enormi, oltre a scarafaggi enormi. Quindi non viene fatta, vengono fatte le pulizie in maniera regolare. Piove nel corridoio e davanti alle camere di pernottamento non hanno somministrato terapia per alcuni giorni ad Alfredo, perché il diario clinico non è arrivato insieme a lui. E quindi Cospito non ha notizie sui nomi dei farmaci che sta assumendo, un disastro, insomma, ma lui è determinato e deciso. Sì, mi inserisco appunto mi inserisco a questo punto qui, dopo aver parlato di Alfredo, della situazione di Alfredo, per dare aggiornamenti anche su un altro detenuto al 41 bis di Bancali, Domenico Porcelli, che ha iniziato uno sciopero della fame contro appunto il regime detentivo del 41 bis il 28 febbraio, e anche lui si trova in una situazione critica, ha già perso 13 kg, la sua salute è in una situazione brutta, insomma, e sta peggiorando velocemente, e inoltre questo prigioniero viene ignorato, Nordio ignora la sua protesta, il ministro, il garante dei detenuti ha inviato una semplice PEC e nessun parlamentare ha avuto interesse a interloquire con lui, quindi è importante insomma dare voce anche a questo prigioniero e fare in modo che la sua protesta e le sue condizioni non passino sotto silenzio, quindi dare solidarietà anche a questo Domenico. E inoltre poi c'è stato, compagni e compagne della Sardegna sono andati a dare un saluto anche al carcere di Badue Carros, dove è stato trasferito Alessio Attanasio, un altro prigioniero combattente, appunto per dargli solidarietà. È stato trasferito da Massama, dove appunto abbiamo spesso notizie di lui, e da Massama, dove era detenuto, è stato trasferito appunto al carcere di Badue Carros. Altro aggiornamento sulle così vicende repressive. Questa mattina, 11 maggio, presso il Tribunale di Cagliari si è svolta l'udienza del processo Lince. Vediamo alcuni così dettagli di questa udienza. È stato nominato un perito del Tribunale che dovrà trascrivere le intercettazioni ambientali telefoniche utilizzate dal PM Guido Pani per formalizzare le pesanti accuse portate contro il movimento contro le basi e l'occupazione militare della Sardegna. Sono state accolte le richieste della difesa di avere copia in tempo reale presso la cancelleria delle intercettazioni che verranno trascritte dal perito. Inoltre sono state accolte le liste integrali delle testimoni portate da accusa e difesa. Si apre ufficialmente il dibattimento, che inizierà il prossimo 5 ottobre con il primo testimone, che è delle forze dell'ordine, nominato dal pubblico ministero. Beh, insomma, già che ci siamo, volevo anche dare questo aggiornamento su un altro prigioniero che da molti mesi che non si sentiva, ed è il compagno Mauro Rossetti Busa, che è stato da qualche tempo trasferito da Opera a Ferrara, quindi se chiede insomma a chiunque abbia voglia di scrivergli o di mandargli dei libri, lui è felice di rispondere, insomma, ha piacere di rispondere e di corrispondere. Quindi diamo il suo recapito: è Mauro Rossetti Busa, via Arginone 327, 44122 Ferrara. Da tenere a mente che sapere insomma che ha una censura sulla posta, chiaramente in uscita, e quindi scrivere quello che riesce, ecco. Comunque così ci ha fatto sapere questa cosa, che per un po' sarà a Ferrara. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band, gli Hooligan Valstar Band. E che altro dire, anche in precedenza durante gli interventi abbiamo ascoltato delle musiche in sottofondo che comunque non facevano parte, per chi è riuscito almeno a recepire e ad ascoltare, alla stessa band, ma più band, perché i brani che stiamo ascoltando, ma credo anche successivamente nei prossimi interventi, sono tutti estrapolati da questo terzo volume, che è una compilation che raccoglie all'incirca 29 band all'interno. Comunque è una compilation benefit per la cassa antirepressione delle Alpi Occidentali, che più o meno tutte le band sono tutte italiane, quelle che hanno partecipato. E vabbè, c'è pure un recapito che di questa cassa antirepressione, che è in quel di Cuneo, presso la Biblioteca Popolare Belvedes. Comunque, vabbè, al di là di quello, comunque è un terzo volume, quindi notevole questa cosa, ed è datato 2013. Ora invece, come detto, dopo ascolteremo anche durante gli interventi sempre in sottofondo queste band all'interno di questo CD, di questo volume. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band punk hardcore proveniente dalla Finlandia. È una band che era nata agli inizi degli anni 80, poi nel primo decennio degli anni 2000 si è riformata e ha fatto uscire questo album, che in precedenza negli anni 80 non ha mai fatto un album, ma solamente dei singoli, dei 7 pollici. Comunque loro sono i Vivisectio, e da questo loro album datato 2011, che ha proprio il titolo 1984, che è proprio l'anno in cui si era formata questa band. Allora andiamo all'ascolto di questi Vivisectio. Vivisectio, dancing to our Vivisectio. il 9 maggio del 1976 veniva ammazzata nel carcere di massima sicurezza di Stamheim Ulrike Meinhof, e la ricordiamo brevemente con una riproponendo un piccolo testo che le compagne della Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma hanno pubblicato appunto per ricordare Ulrike e tutti quelli e quelle che hanno combattuto e che combattono per uscire da questa società. Nome Ulrike, cognome Meinhof, di sesso femminile, età 41 anni. Sì, sono sposata, due figli, nati con parto cesareo. Sì, divisa dal marito, professione giornalista, nazionalità tedesca. Sono qui rinchiusa da 4 anni in un carcere moderno di uno stato moderno. Reato? Attentato alla proprietà privata e alle leggi che difendono la suddetta proprietà e il conseguente diritto dei proprietari ad allargare a dismisura la proprietà di tutto. Tutto, compreso il nostro cervello, i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri sentimenti e il nostro lavoro e il nostro amore, tutta la nostra vita, insomma. Per questo avete deciso di eliminarmi, padroni dello Stato di diritto. La vostra legge è davvero uguale per tutti, meno per quelli che non sono d'accordo con le vostre sacre leggi. Ecco, lo stesso giorno, 9 maggio, però nel 1975, veniva crivellato di proiettili e moriva sull'asfalto il militante della RAF, Philipp, nome di battaglia, Werner Sauber. 9 maggio 1975, la TV tedesca informa: sospetti terroristi hanno sparato la polizia di Colonia nelle prime ore del mattino, dice il giornalista TV. C'è stato un morto e un ferito grave da entrambe le parti. Una telecamera mostra un parcheggio, piastrelle grigie, una macchia bianca. Su di esso il profilo di una persona e tracce di sangue. Si saprà poi che il morto è Werner Philipp Sauber, cittadino svizzero. Il 28enne apparteneva al Movimento 2 Giugno, organizzazione comunista, formatasi dopo la morte di Benno Ohnesorg di Berlino il 2 giugno 67 a una manifestazione contro lo Shah. Werner Sauber era cresciuto in una villa sul lago di Zurigo. I genitori sono imprenditori, diventati molto ricchi costruendo semafori. Ma a casa dei suoi genitori non si leggevano libri, non si ascoltava musica. Frequenta il liceo commerciale, perché lo vuole suo padre, che voleva che almeno il secondo figlio fosse il successore dell'azienda, quando il primo era scoppiato per diventare un pilota da corsa. Dopo la sua morte, quest'ultimo viene sepolto a Zurigo, cioè immaginiamo il fratello insomma di Werner, probabilmente ha avuto un incidente, viene sepolto, ma il suo nome non compare più nella storia della famiglia. Peter Sauber, proprietario della scuderia di Formula 1, non lo nominerà mai. Werner fugge da questo mondo chiuso e perbenista e quando arriva a Berlino per studiare cinema nel 67, all'età di 20 anni, aveva radicalmente rotto col suo passato sul lago di Zurigo, cambiando persino il suo nome. Adesso si faceva chiamare Philipp. A Berlino vive gli anni della contestazione studentesca, delle manifestazioni, delle proteste, della RAF. Infatti, dopo la morte del leader studentesco Rudolf Dutschke, e Sauber rinuncia alla sua posizione di spettatore, diventa politicamente più impegnato e combattivo. Compra una giacca militare con molte tasche destinate ai sanpietrini. Viene espulso dall'Accademia di Cinema che stava frequentando con altri 17 studenti, finisce in prigione per la prima volta e viene nuovamente rilasciato. Per un po' si guadagna da vivere come tassista, prendendo contatti con gruppi di lavoratori e combattenti. Quando gli americani marciano sulla Cambogia nel 70, Werner è presente alla protesta davanti all'ambasciata americana di Berlino. Da quel momento in poi la polizia lo cerca e perquisisce il suo appartamento. Sauber è fuggito, ma ferma nel suo compagno di stanza Holger Mainz. E da quel momento che a Werner Philipp non resta che entrare in clandestinità, pianifica la sua clandestinità come una volta progettava la sua visibilità di nascente regista. Si ritira da una relazione di lunga data, distrugge le foto, mette fine alle amicizie. Del periodo di Sauber in clandestinità non si sa molto, scrive saggi combattivi, ha collegamenti con l'Italia, rapine in banca, passaporti falsi. Poi la morte in quel parcheggio, era in fuga, ha sparato l'ufficiale di polizia per legittima difesa. È stato crivellato di colpi dalla polizia. Un'ora ai combattenti per la libertà e il comunismo. Era un testo che abbiamo trovato così in giro su internet, probabilmente è stato tradotto alla veloce, io ve l'ho letto così senza andare a così modificarlo. Era insomma un profilo di questo militante combattente comunista della RAF, Werner Sauber. Brucerà, brucerà, porca Madonna se brucerà! Bene, stiamo continuando ad ascoltare come era in precedenza durante gli interventi tutti i brani di questa compilation Benefit per la è stato fatto questo album dalla cassa antirepressione delle Alpi occidentali e che, come ho detto prima, sono all'incirca una trentina le band e questo era il terzo volume uscito nel 2013 e ora invece andiamo all'ascolto di questa band croata, loro sono i Nulla Osta, questo è un loro ultima uscita datata 2019 ed è uno split assieme ai Goriziani Warfare e comunque noi ci ascoltiamo un paio di brani per il Nulla Osta, al loro lato che si chiama Morali distorte di anime maledette. Nulla Osta. We'll be right back. Ecco, allora, mentre qui l'orologio dello studio dalla nostra parte dice che sono le 9:00 e qualche, insomma, una manciata di secondi, andiamo avanti con un altro argomento per la puntata di Zardins Magnetics di stasera, che è l'11 maggio 2023. Allora, premessa, non sempre, diciamo, le cose che qui noi esponiamo sono, cioè, le condividiamo fino in fondo, o diciamo portiamo tutte le esplicitamente, diciamo, insomma, compattamente, eccetera eccetera, con chi le ha scritte. E il caso di questa volta, in cui andremo a parlare di un opuscolo tradotto in italiano da Matteo della Nave dei Folli, che ha un blog che si chiama Istrix. E così, diverse volte, anche parlando tra di noi, quando prepariamo la trasmissione, abbiamo riscontrato che le cose che vengono portate, diciamo, sia sul blog sia la trasmissione, sono sicuramente controverse, sicuramente non fino in fondo condivisibili, molte volte provocatorie, anche fastidiose, ma sicuramente sono, diciamo, un approccio creativo e non conformista, diciamo, alle questioni, ecco, che vengono trattate. Tutta questa premessa era appunto per parlarvi di questo opuscolo che è intitolato Il ritorno della sinistra confinata. È un opuscolo pubblicato è pubblicato recentemente, tradotto, dicevo prima, ma prende due articoli, in particolare di questo blogger, si chiama Darren Allen, è un compagno britannico inglese, scusate, mi correggo, La sinistra confinata, il titolo dell'opuscolo, Il ritorno alla sinistra confinata è uno dei due articoli, l'altro è La reazione della sinistra al confinamento. Allora, ci si chiede in questo opuscolo, insomma, in questi due articoli, ci si chiede più che appunto andare a così attraversare in maniera così argomentativa le varie questioni che abbiamo trattato qui anche su questi microfoni decine di volte in questi anni, cioè appunto nel merito, ci si chiede, ma un attimo, fermiamoci, ma quelli che sono i critici critici del presente, della realtà, insomma, della società, i critici, quelli che prospettano, che dovrebbero prospettare un cambiamento radicale o meglio una, diciamo, una tabula rasa e un ripartire da zero con tutt'altre premesse, insomma, per i rapporti tra le persone, per il sistema, insomma, di riproduzione sociale, eccetera eccetera, che non preveda più Stato e non preveda più sfruttamento, non preveda più capitalismo. Che cosa li ha impedito, questi qua che sarebbero i critici, che sarebbero, possiamo dirlo, diciamo, individuati come intellettuali, individuati come ma anche radicali, semplicemente, insomma, coloro che distribuiscono opinioni non semplicemente, ecco, che si esauriscono nel corso della giornata e domani si resettano, come fanno, insomma, quelli mainstream. Questi qui sarebbero quelli, non diciamo guru, ma quelli da cui, insomma, noi dobbiamo trarre qualche così indicazione generale su come andare avanti. Questi qui perché sono stati in silenzio durante le procedure, insomma, di confinamento, la realtà del confinamento, insomma, quella situazione surreale e agghiacciante, insomma, tra il marzo e il maggio, aprile-maggio del 2020, insomma, in cui questa situazione è stata presentata come soluzione a una minaccia letale, insomma, si presentava letale, insomma. E quindi, oltre che perché, dobbiamo andare a vedere anche chi sono questi, di solito, questi critici, queste persone che prendono parola e distribuiscono opinioni. E chi sono e cosa fanno, non quello in cui credono in cui dicono di credere. Ma prima di questo, insomma, facciamo un passo indietro. La questione, appunto, era già chiara in questo primo articolo, che è del 2020. Per Allen presenta dei dati così, un po' così, diciamo, frammentari, ma comunque dove è già chiaro che il C19, il Covid-19 non era tanto grave come è stato presentato, e i tassi di sopravvivenza erano abbastanza alti, eccetera, eccetera. Insomma, non dilunghiamoci su questi tipi di dati. Insomma, era il tema di questo opuscolo, e appunto non è, appunto, perché per come il discorso, appunto, del confinamento è successo, e perché, appunto, è stato imposto dai governanti, ma perché hanno taciuto i cosiddetti intellettuali. Allora, non è finita. Questi che hanno, appunto, minimizzato sin da subito l'orrore del confinamento, questi che hanno, insomma, ma anche dopo sono stati zitti, anche quando si sono resi conto che era una soluzione aberrante di mantenere le persone a distanza, anche il discorso dei 2 metri di distanza è una roba totalmente campata in aria ed era evidente, ma tutta un'altra serie di cose, insomma, anche ridicole. Sono purtroppo quelli che si schierano, insomma, che dicono di essere di sinistra, che sono i sinistri, chiamiamoli, senza adesso fare colpevolizzare, insomma, senza prendere di mira qualcuno di preciso, facciamo uno schema. Questi sinistri hanno sostenuto il confinamento perché sostanzialmente tra di loro la maggioranza è costituita da persone che fanno parte della classe dirigente, non nel senso governante, ma quelli che mandano avanti la società come è messa in piedi oggi, cioè sono quelli che organizzano, quelli che amministrano, quelli che promuovono e giustificano il sistema, la macchina mondo. E inoltre queste persone che sono proprio quelle più determinate, ma non perché, cioè non è che dipende da loro, dice Allen, loro sono funzione di questa macchina mondo, nel senso che sono anche premiate e collocate al potere perché sono proprio quelle più determinate a trasformare la realtà che noi conosciamo o che conoscevamo in una macchina di piacere che divora la terra. Questo è il suo, insomma, la sua visione. Il potere che hanno loro non deriva dalla proprietà, non sono più proprietari come erano i capitalisti dell'Ottocento, ma dalla gestione. E per questo loro, il loro potere è fondato sulla fede nella tecnologia. Se loro, insomma, non avessero la tecnologia è quello che gli permette di organizzare, di risolvere i problemi collettivi, come quella che è stata dipinta come pandemia, con soluzioni, appunto, loro portano delle soluzioni tecnocratiche, come quella che è il confinamento. Non solo, anche adesso, uscendo dallo schema, ci fosse qualcuno in questi così nuovi chierici, in questi intellettuali, in questi tecnocrati, che avesse, e senz'altro c'è, spirito critico, non basta, perché dopo che uno vive 20 o 30 anni nell'accademia, nel giornalismo, nella medicina o dentro l'apparato giudiziario, questi apparati li ha ridotti a essere obbedienti, non creativi e deboli, e quindi ogni critica ogni critica che potrebbe emergere minaccerebbe il loro status, la loro posizione nell'apparato. Tra questi, insomma, guru, Allen in particolare si focalizza su due: uno è Chomsky e uno è Noam Chomsky, che tutti conoscono, e l'altro è, anche questi tutti lo conoscono, è Zerzan, l'anarco primitivista. Appunto, insomma, anche c'è la, sono pubblicate, sono riportate anche delle corrispondenze tra l'autore, tra Allen e Zerzan, e niente, c'è questa, cioè, non voglio dire testardaggine, ma addirittura, cioè, non voler aprirsi, non voler mettersi neanche in discussione, non solo non mettere in discussione degli errori madornali, chiamiamoli così, ma neanche voler ricredersi, neanche voler essere disposti a mettersi in discussione se stessi. E quindi questa è il contributo di questo, al di là degli eccessi, anche delle schematizzazioni, perché ha preso anche diverse, come abbiamo detto altre decine di volte, anche questa ha preso anche diversi compagni anarchici, questo tipo di atteggiamento. Comunque era appunto questa il contributo di stasera, era appunto questo opuscolo di Darren Allen, ripeto, La sinistra confinata, a cura di Istrix, lo trovate sul suo blog. Get it! abituato ad essere la pecora nera, la dannazione del pensare fino quasi ad impazzire. Abituato a sentirti diverso, a sentirti addosso occhi invisibili. Siamo sempre dalla parte del torto, siamo sempre dalla parte del torto, siamo sempre dalla parte del torto, siamo sempre. E siamo arrivate quasi alla fine di questa puntata di Zernis Magnetics. Beh, ricordo, programma autogestito condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, e ritorniamo all'antimilitarismo e alla resistenza e ribellione appunto contro l'occupazione militare da parte degli alpini, che è iniziata oggi ufficialmente e che si concluderà domenica. Allora, da domani 12 maggio fino al, quindi domani che è venerdì, sabato e domenica 12, 13, 14 maggio, e presso lo spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine ci saranno i tre giorni della Dilda: distruggi, infuriati, liberati, debella gli alpini. Allora, che cos'è questa iniziativa? È una tre giorni autogestita, femminista, separatista, uno spazio per liberarsi dall'incubo della dunata degli alpini e anche uno spazio per stare insieme in questi giorni senza paure e unendo le forze tra donne, lesbiche, trans, persone non binarie e queer. Dico due parole sulla scelta separatista, che magari non è sempre, è un po' indigesta anche in ambiente di compagni. Allora, il separatismo per noi è uno strumento di lotta, è un'occasione di radicamento e sprigionamento della nostra forza, un momento di complicità tra soggettività oppresse dal patriarcato. In questo poi momento specifico ci è anche utile per concentrarci su di noi, per capire, diciamo, confrontarsi su come difenderci e attaccare il sistema che ci opprime, del quale le forze armate rappresentano un paradigma particolarmente fastidioso. E per questi tre giorni è stato anche aperta una linea telefonica 331 4613 411, telefono operativo dal 12 maggio fino al 15 maggio, e un telefono, diciamo, che è una sorta di SOS contro gli alpini molesti, specificando che non è diciamo un servizio di pronto soccorso, nel senso che i soggetti che rispondono non sono né operatrici sociosanitarie né centri antiviolenza, ma persone che intendono, insomma, sostenere e dare solidarietà in caso di, appunto, molestie. E è stata aperta anche una mail: alpini a Udine @ anche.no. appunto dove si può scrivere. Allora, rispetto a questo discorso della, così anche della solidarietà verso soggetti che possono essere, subire diciamo delle angherie, partiamo dal presupposto che una violenza non diventa tale solo se attraversa le maglie dell'inferno sbirresco, cioè sappiamo benissimo che qual è l'iter patriarcale che oggi, ma non è solamente da oggi, donne e altre soggettività non iscritte nella normatività attraversano quando denunciano violenze di genere alle istituzioni. Quindi siamo solidali con chi decide di non denunciare ad uomini in divisa violenze o comunque aggressioni da parte di altri uomini in divisa, ma appunto siamo solidali con chi intende parlare, cioè non accettare in silenzio. Per noi è fondamentale sostenere, supportare, dare voce a chiunque subisca una violenza patriarcale, e questo in un'ottica di autodifesa femminista, cioè in un'ottica di rafforzamento delle nostre capacità di risposte ai soprusi. Rispetto al discorso della dunata, che è già della dunata degli alpini, che è già una forma di colonizzazione e di violenza in quanto tale, ricordiamo che Rimini non è stata un'eccezione. Le violenze ci sono già state a Trento, a Milano. Non ci dimentichiamo nemmeno dell'invasione da parte degli alpini avvenuta a Udine nel 1996, con relativa aggressione delle dissidenti e dei dissidenti del centro sociale autogestito, che al tempo c'era, insomma, da parte dei militari. E poi chi di noi ha più anni sul groppone non dimentica neanche la difficoltà e il disagio di andare in giro, semplicemente di andare in giro per le strade della città negli anni Ottanta, quando ancora erano attive le caserme a Udine, e che dal tardo pomeriggio era letteralmente assediata da uomini che a loro volta erano vittime, diciamo, della leva obbligatoria, vittime tra virgolette, ma comunque si comportavano di fatto come forze di occupazione. Quindi non è per noi una questione di male marce o di cose di questo genere, è una faccenda strutturale dove ci sono forze armate, dove c'è un ammassamento di servitori della patria, dove c'è un esercito, lì c'è un attacco alla libertà e alla autodeterminazione delle donne e delle soggettività non conformi in primis, poi direi anche di tutte le persone che non rinunciano appunto alla loro autonomia. Le donne in guerra, non dimentichiamoci, diventano un bottino per i militari, quindi possiamo dire che non esiste un esercito amico, non esiste un esercito liberatore. Rispetto poi all'entrata delle donne nelle forze armate, questa operazione ci fa schifo. Lottiamo contro il patriarcato, ma anche contro le patriarche. Non è emancipazione, è interiorizzazione del dominio e dei meccanismi di oppressione. Ecco, poi diciamo che in occasione di questa, appunto, di questa tre giorni militarista è apparso in Piazza Libertà uno striscione paraculo che dice una cosa tipo zero tolleranza contro la violenza di genere. Ecco, diciamo che questo striscione qua, appunto, è uno striscione paraculo e ci fa ridere. Non ci crede nessuno alla sincerità di queste parole, è una forma per diciamo non rifarsi una facciata e comunque fa ridere perché nessuno ci crede. Quindi ribadisco, 12, 13, 14 maggio presso lo spazio autogestito di via dei Rubeis 43 a Udine, i tre giorni della Dilda. Distruggi, infuriati, liberati, debella gli alpini, una tre giorni autogestita femminista separatista, e inizieremo così le varie proposte a partire da domani, che è venerdì, dalle ore 17 circa, e siete invitate a passare di lì se avete voglia. We'll be right back. Bene, questa band che abbiamo ascoltato adesso erano La Gorgia, ma come detto prima, presentato in precedenza, durante tutti questi interventi abbiamo ascoltato tutti i brani estrapolati da questa compilation, che anzi credo si senta ancora in sottofondo, ed è una compilation, anzi al terzo volume di questa compilation, benefit per la cassa antirepressione delle Alpi occidentali, e comunque la compilation che si chiama Hardcore non si comanda. E tra l'altro, ovviamente, tante le band che abbiamo ascoltato, forse quelle in particolare che siamo riusciti ad ascoltare quasi completamente, ci sono stati ieri, poi A Fora di Arrasto, i Mr. Monrungio, i Always Never Fun e vabbè altre. Comunque, ora siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che è un programma radiofonico qui in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane, viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. E mancano pochissimi minuti. Vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci attraverso la posta elettronica fatelo con questa mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scrivete direttamente intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione, potete andare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, e salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio dalle ore 17 di venerdì su Radiazione. Ci salutiamo, vi lascio con un ultimo brano di una band inglese, loro sono i Disgust, e questo, quello che ascolteremo, è tutto, insomma, l'inizio di questo album che si chiama A World of No Beauty, Disgust. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. Siamo sempre in diretta da via